giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Farsi da Bagnoli, fabbrica deserta dopo l'annuncio dell'azienda del via all'iter che precede i licenziamenti, ma domani i lavoratori saranno in assemblea. Un'area di 6 ettari sotto sequestro in laguna per irregolarità nei dragaggi, coinvolta un'attività di acquacoltura con metodo biologico. Nuovo ospedale di Pordenone, la consegna del cantiere il 30 aprile, poi collaudi e dall'autunno la fase di allestimento di arredi e attrezzature. Trieste, il progetto per il rifacimento di Piazza Libertà illustrato dal comune. Davanti alla stazione il nuovo simbolo sarà un pezzo di Carso. Sono le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettige. In apertura la vertenza Varzila. Ieri sera l'azienda ha comunicato attraverso il suo ufficio stampa che si apre l'iter informativo che precede i licenziamenti e la conseguenza del mancato accordo sulla proroga dei contratti di solidarietà. La fabbrica di Bagnoli della Rosandra è letteralmente vuota, macchine ferme, lavoratori a casa. Ieri mattina i dipendenti sono stati invitati a non rientrare in azienda fino a una prossima comunicazione, ma domattina è tuttavia in programma un'assemblea. Intanto il ministro Urso si è detto deciso a recuperare incentivi e contributi erogati alla multinazionale negli ultimi 10 anni. Nessun operaio ai tornelli, né camion ad aprire cancelli. Tutto tace fuori da Varzila e anche dentro, uno stabilimento letteralmente vuoto, perché se gli impiegati da tempo sono quasi tutti in smart working, gli operai che ieri si erano recati al lavoro sono usciti a metà mattina e oggi neppure si sono presentati. Del resto è stata la stessa azienda a comunicare loro che potevano andarsene, è successo ieri mattina con un comunicato. Se da agosto i lavoratori erano in solidarietà 3 settimane al mese, dal 1 gennaio nessuno è più entrato in azienda. Varzila aveva detto niente lavoro dal 1 all'8 gennaio, ma il tavolo del 9 a Roma ha messo la parola fine alla lunga trattativa annunciando la volontà di non firmare l'intesa con le parti sociali e le istituzioni. Con un comunicato burocratico che rimanda a norme e articoli di legge, Varzila ieri sera ha dichiarato ufficialmente la cessazione dell'attività produttiva a Trieste e sempre ieri sera il ministro Adolfo Urso ha usato parole forti. Il sito produttivo di Bagnoli della Rosandra ha detto: è strategico per l'intero paese, adotteremo tutte le azioni necessarie per recuperare gli incentivi e contributi statali concessi alla società negli ultimi 10 anni. E la sottosegretaria Fausta Bergamotto ha aggiunto: d'ora in poi ci confronteremo solo con Varzila Finlandia, perché il confronto non potrà più avvenire con l'attuale dirigenza italiana. E a proposito della dirigenza Varzila, ieri sera la società ha smentito le voci circolate sulle possibili dimissioni del proprio amministratore delegato Michele Cafagna e nel comunicato ha ribadito anche l'importanza di Trieste e degli altri siti italiani, Genova e Napoli, sul fronte dell'attività di ricerca e sviluppo, di service e formazione, cercando di rassicurare dopo le voci diramate dai sindacati e anche dalla politica, l'assessore Rosoleni in testa, su un possibile disimpegno totale dell'azienda finlandese anche nei confronti dei colletti bianchi, 600 lavoratori considerati finora fuori rischio. Ricordo a tutti, ha detto Fabio Canidisek, RSU CISL FIM, a sua volta anche lui impiegato, che la chiusura della produzione era sempre stata fuori discussione, fino a quella mattina del 14 luglio di 2 anni fa, quando esplosa la bomba, totalmente inaspettata. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Un'area di circa 60.000 metri quadrati è stata posta sotto sequestro dai militari dell'ufficio locale marittimo di Lignano Sabbiadoro dopo una serie di controlli ambientali effettuati assieme ad ARPA FVG e al personale tecnico del comune di Latisana nell'ambito di un'attività di acquacoltura con metodo biologico. Dal controllo è stato accertato che la società oggetto dei controlli ha effettuato nel corso degli ultimi anni attività di dragaggio dei canali senza effettuare le procedure di caratterizzazione e di verifica della compatibilità ambientale previste dal piano regionale di tutela delle acque, secondo le indicazioni delle linee guida dell'ARPA e della vigente normativa ambientale. L'area posta sotto sequestro ricade all'interno di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelato dalla rete Natura 2000, rientrante nelle più ampie zone protette come quella di protezione speciale ZPS e la zona speciale di conservazione, la ZSC. Il sequestro dell'area di circa 6 ettari e di oltre 10.000 metri cubi circa di fanghi derivanti dalle attività di dragaggio dei canali è il frutto di un'attività di indagine che è stata condotta nei mesi scorsi dagli uomini e dalle donne della Guardia Costiera di Lignano Sabbiadoro, che sotto la direzione dell'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Grado ha portato appunto all'individuazione dei responsabili della condotta illecita. Ci spostiamo a Pordenone per il punto sui lavori del nuovo ospedale. Il completamento in vista dei collaudi è previsto fra poco più di 3 mesi. C'è una data, il 30 aprile, per la consegna del grande cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone. Sarà quindi la volta dei collaudi che, secondo le previsioni dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, termineranno a fine settembre. Lo spiega il direttore generale ASFO, Giuseppe Tonutti. Siamo a un buon punto, la consegna al cantiere è prevista per il 30 di aprile. Poi è chiaro che non è finita perché ci sono i collaudi. E questi ci occuperanno, calcoliamo, circa fino alla fine di settembre. C'è poi la partita più delicata, quella degli arredi e attrezzaggi della nuova struttura ospedaliera. Ancora Tonutti. Noi siamo riusciti a velocizzare la commissione di gara che sta chiudendo, ha chiuso come commissione, adesso c'è l'apertura busta, insomma ancora. Però diciamo che entro questo mese questa partita è finita. Noi confidiamo che per la fine di ottobre almeno delle parti importanti dell'ospedale siano attrezzate per poterci entrare. Obiettivo della direzione? Aprire le porte ai pazienti entro il prossimo Natale. Penso che partiremo, prima pensavamo con gli ambulatori, poi ci sta forse venendo in mente, forse ci conviene partire con alcune degenze, perché non sarebbe male riuscire ad affrontare il prossimo inverno nel nuovo ospedale, perché questo ha una flessibilità anche, risolveremo dei problemi di posti letto che stiamo vivendo tuttora e potrebbero anche essere un po' alleviati nella nuova struttura. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato firmato questa mattina nella sede dell'azienda sanitaria Friuli Centrale l'accordo sull'indennità di pronto soccorso che definisce i criteri di erogazione del fondo aziendale pari a poco meno di 550.000 euro di importo. I fondi stanziati per la nostra regione ammontavano complessivamente a 1.370.000 euro ripartiti alle aziende sanitarie dopo un lungo confronto sindacale con l'assessorato. In base all'accordo raggiunto nell'azienda sanitaria Friuli Centrale, scrivono i sindacati UIL e NURSIND in una nota, 329.000 euro andranno ai 469 dipendenti beneficiari con importi differenziati per profili professionali, mentre gli altri 207.000 euro saranno ripartiti prendendo in considerazione il numero di accessi dei pronto soccorso, considerando i numeri di accesso, secondo i criteri definiti su base regionale. Sono le 12 e quasi 38 minuti, siamo alla pagina politica, in Consiglio regionale torna al centro del dibattito la questione dell'incompatibilità dell'assessore Sergio Emidio Bini. Poco fa le opposizioni hanno illustrato una mozione firmata dai gruppi consigliari PD, Patto Civica Friuli Venezia Giulia e Misto. L'incompatibilità dell'assessore Bini in una mozione sostenuta dai gruppi consigliari di opposizione è rivolta al governatore Fedriga perché faccia una valutazione sulle deleghe dell'assessore. PD, Patto Civica FVG e Gruppo Misto, dopo la mozione respinta dal voto della maggioranza in aula nell'estate dello scorso anno, richiamano nuovi elementi sul conflitto di interessi dell'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini. Massimo Morettuzzo, Patto per l'autonomia, sottolinea che si sta parlando dei rapporti tra la società Euro e Promos, dove Bini risulta socio di riferimento, e le società che fanno capo all'ente regione. Roberto Cosolini, PD, ricorda il principio costituzionale dell'imparzialità nella pubblica amministrazione, spiegando che dalla retribuzione si deduce un ruolo apicale all'interno della società, dove Bini detiene, aggiunge Cosolini, il 40,6% delle quote. Illustrati anche gli appalti tra la cooperativa legata a Euro e Promos e le società della regione come ARPA, ASFO, Crodiaviano ed Elettra. Appalti anche tra la stessa SPA e le società della regione dopo il 2018. All'interno della mozione, rivolta al presidente della regione Fedriga, le specifiche dei conflitti di interesse sostenuti dall'opposizione. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Primo via libera del governo allo stanziamento di risorse per finanziare uno studio di fattibilità del Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito attraverso il porto di Trieste, quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite nel centro-est Europa attraverso l'oleodotto transalpino. Prende dunque corpo l'accordo di cooperazione recentemente sottoscritto tra l'autorità portuale dell'Adriatico Orientale e l'autorità portuale di Tangeri. Lo ha fatto sapere la deputata del PD, Deborah Serracchiani, della quale è stato accolto un ordine del giorno relativo al disegno di legge Piano Mattei, trasformato in un emendamento al disegno di legge Energia e dichiarato ammissibile. Un pezzo di Carso che chi arriva a Trieste in treno potrà ammirare una volta uscito dalla stazione. Sarà il simbolo della nuova Piazza Libertà, il cui progetto di riqualificazione è stato presentato stamattina. Sentiamo. Dopo la demolizione della Sala Trypkovic, la riqualificazione di Piazza Libertà a Trieste va avanti. Secondo il progetto presentato in conferenza stampa, il piano, che si avvale di 2.700.000 euro resi disponibili con la legge di stabilità regionale, prevede una riqualificazione generale della piazza e di largo Città di Santos. In particolare, sarà installato un micropaesaggio, una sorta di parco ispirato alla natura dell'ambiente carsico, definito dall'architetto Andreas Kipar, che lo ha ideato, l'occhio di Massimiliano. Secondo il sindaco di Trieste di Piazza, sarà un pezzo di Carso che potranno ammirare i visitatori appena scesi dal treno e magari li ispirerà a visitare la zona dell'altopiano. Nel progetto sono previsti anche miglioramenti alla viabilità pedonale, compreso il collegamento ciclabile tra le rive e la stazione ferroviaria. Nella zona ci sarà anche un nuovo presidio dei carabinieri alle spalle di Largo Santos. Come spiega l'assessore Roberti, sorgerà nell'ex edificio delle poste e consentirà di avere un presidio di forze dell'ordine in una delle aree più sensibili della città. Il progetto, ancora in fase preliminare, dovrà passare per la conferenza dei servizi, dove saranno raccolti i pareri necessari per la fase di progettazione esecutiva. A quel punto sarà emesso il bando di gara. Come spiega Roberti, i tempi non saranno lunghissimi e il cantiere verosimilmente inizierà nel 2025. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. A Campo Formido l'amministrazione comunale si prepara all'avvio dei lavori per il rifacimento completo della scuola media Giuseppe Marchetti, l'attuale edificio posto su via Percoto tra la scuola materna e la primaria di primo grado sarà completamente demolito e ricostruito a nuovo e sullo stesso sedime. La valutazione tecnica sull'edificio esistente, ha spiegato la sindaca Erika Furlani, ha evidenziato un elevato indice di vulnerabilità sismica, nonché la presenza di numerose barriere architettoniche non più compatibili con gli attuali standard di fruibilità e con alti costi di gestione e manutenzione. Il costo dell'opera supera i 5 milioni di euro, che saranno coperti in gran parte dai contributi del PNRR, oltre 3 milioni 800 mila euro. Altri fondi arriveranno dalla regione e dal gestore dei servizi energetici. I lavori partiranno nel prossimo mese di giugno per concludersi ad agosto 2025 e ora il comune sta valutando la soluzione migliore per la sede provvisoria che dovrà ospitare le classi per l'anno scolastico 2024-2025. E a Trieste è già effettivo il trasferimento della scuola Corsi nell'area del Porto Vecchio. Ce ne siamo occupati questa mattina con un collegamento diretto nell'ambito di Buongiorno Regione. La permanenza al Molo Quarto durerà 2 anni e si fa lezione con vista mare. Trasformare un grande centro congressi in una scuola media, una situazione molto particolare quella che stanno vivendo i lavoratori e gli oltre 300 studenti della scuola Guido Corsi di Trieste. Trasloco necessario per mettere in sicurezza il vecchio edificio di via Sant'Anastasio. I lavori dureranno 2 anni e costeranno al comune 1,5 milioni di euro. I collaboratori scolastici hanno lavorato senza sosta durante il periodo natalizio per pulire gli ampi spazi dalla polvere del cantiere per arredare gli ambienti. Vincenzo Derrera, collaboratore scolastico. È abbastanza dura, devo dire un grazie fortissimo a nome dei ragazzi, dei professori, docenti e familiari, alle mie colleghe che hanno dato veramente tanto. Il comune paga alla società privata Trieste Terminal Passeggeri 1.300.000 euro d'affitto per i prossimi 2 anni. Inoltre, per adeguare gli spazi, il comune ha speso 380.000 euro e non è finita. Prossimamente un'ampia area esterna sul mare verrà messa in sicurezza. La palestra interna è infatti un po' piccola e non si può giocare a palla per il rischio di rompere i lampadari. Per ora manca la connessione internet e le tendine per ripararsi dal sole, ma gli ambienti così nuovi e luminosi mettono tutti di buon umore. Corrado Govoni, membro del consiglio d'istituto. I ragazzi sono entusiasti di venire in questa nuova sede, è molto accogliente, gli spazi sono generosi, anche per quanto riguarda la logistica, essendo così vicina alla scuola originaria, la situazione è ottimale. Giovedì prossimo si apriranno le iscrizioni al nuovo anno scolastico e la Corsi si augura di attirare nuovi iscritti. Roberto Benes, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Margherita Hack. Da quando abbiamo avuto notizia, già 2 o 3 anni fa, della ristrutturazione, abbiamo cominciato un calo di iscritti, proprio perché in effetti c'era incertezza sulla sede e quindi anche soprattutto il bacino d'utenza nostro si è trasferito nelle scuole più vicine. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Incidente sulla cabinovia del Canin, quella che sale da Bovez sul versante sloveno, è accaduto martedì nel primo pomeriggio. Il forte vento ha provocato lo scavallamento di un cavo e la caduta di una cabina, fortunatamente senza conseguenze per alcuni addetti che erano al lavoro sulla linea. Si tratta di due macchinisti che erano stati inviati in quota per avviare gli apparecchi nelle stazioni B e C, ma durante l'operazione si è appunto verificato l'incidente. La cabina è rimasta sospesa sul filo d'acciaio a pochi metri dal suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del soccorso alpino di Bovez che hanno tratto in salvo entrambi gli operatori rimasti illesi. Sull'accaduto indaga la polizia di Nova Gorica. Un incidente simile si era verificato nel 2013. Sembra paradossale, ma la cabinovia di Bovez quest'anno è chiusa per adeguamenti alle norme di sicurezza imposti dall'autorità statale slovena. E appunto, sul Monte Canin quest'inverno si sale solo dal versante italiano, come noto. Tutte aperte nel prossimo fine settimana le piste di Sella Nevea, dopo l'intervento di ieri nelle zone minacciate da neve instabile. Le temperature rigide di questi ultimi giorni hanno consentito di innevare artificialmente in tutti i poli sciistici della regione. Con poche eccezioni saranno dunque aperti regolarmente gli impianti per gli appassionati dello sci. Vediamo allora la situazione del tempo. Sul Friuli Venezia Giulia abbiamo ovunque cielo sereno, le temperature sono risalite rispetto a quelle piuttosto rigide di questa mattina. Alle 11 avevamo a Trieste 6 gradi e 5 decimi, a Udine 6 gradi, a Gorizia 5, nel Pordenonese, nel capoluogo 3 gradi e 5 decimi, nell'area montana a Tolmezzo 1 grado e 5 decimi, a Tarvisio meno 2, a Sappada meno 5, sul Piancavallo 2 gradi positivi, a Forni di Sopra 4 gradi e mezzo sotto zero, sullo Zoncolan 0 gradi, sul Lussari meno 4. Sulla costa Lignano e Agrado 4 e 5 decimi. Queste invece le previsioni. Cielo sereno, sulla costa soffierà bora moderata in attenuazione nel pomeriggio. Le temperature massime saranno in decisa ripresa e lo zero termico sarà in rialzo fino a 1800 metri circa nelle ore centrali della giornata. Domani cielo in prevalenza sereno con possibile temporanea presenza di velature ad alta quota e congelate notturne su gran parte della regione. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata. Lo zero termico sarà intorno ai 1200 metri di quota con inversioni a fondo valle nelle ore notturne. È attivo dal mese di dicembre il piano emergenza freddo predisposto dal comune di Pordenone. La nostra attenzione si focalizza naturalmente verso le persone più fragili e vulnerabili, in particolare anziani e bambini, ha detto l'assessore alle politiche sociali Guglielmina Cucci. Grazie al lavoro in rete, al coordinamento con Polizia Locale, ASFO e le associazioni di volontariato, con queste ultime che sono a disposizione per piccole necessità come il trasporto, ma intervengono anche a contrastare la solitudine. Sul volantino distribuito dal comune, oltre ai numeri di telefono da utilizzare per le richieste di aiuto, si forniscono anche suggerimenti utili e pratici per affrontare al meglio le criticità derivanti dall'abbassamento delle temperature. Sul Carso Triestino, tra i resti di un castelliere di 2400 anni fa, è stata trovata una mappa astrale incisa, ovviamente, sulla pietra, che ora è custodita dalla sovrintendenza. Potrebbe essere la più antica mappa celeste mai scoperta, una pietra circolare risalente a 2400 anni fa di circa 50 cm di diametro e 30 cm di altezza, con 29 incisioni che sono sovrapponibili alle stelle dello Scorpione, di Orione, delle Pleiadi e sul retro della pietra di Cassiopea. Una scoperta incredibile nel cuore del Carso Triestino, nel castelliere Gradez di Rupin Piccolo, fatta dall'archeologo triestino dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dell'ICTP, Federico Bernardini, che ha subito chiesto la consulenza dell'astronomo Paolo Molaro dell'INAF di Trieste. Devo dire, confessare che all'inizio non ci credevo. Poi ho guardato che effettivamente per effetto della precessione degli equinozi la coda dello Scorpione si alzava circa 3 gradi ogni 1000 anni, quindi 2 o 3000 anni fa era effettivamente una costellazione molto importante nel cielo qui, nel nostro cielo da Trieste o dal Carso. Poi ho registrato una incredibile precisione dei punti con la coda dello Scorpione. C'è anche una stella che oggi non vediamo più. Quella che gli astronomi oggi considerano una supernova fallita e che quindi poi dopo è scomparsa, probabilmente lasciando come remnant una stella a neutroni o un buco nero, che se verrà trovata potrebbe validare tutta l'interpretazione che diamo sui punti della pietra. Nella preistoria europea, a partire circa dal terzo millennio avanti Cristo, con la diffusione delle popolazioni indoeuropee, si diffonde il culto del sole in qualche modo. E quindi queste pietre molto probabilmente avevano un'importanza simbolica, religiosa, che ovviamente in gran parte ci sfugge, ma che ci permette di connotarle come degli oggetti in realtà particolari e importanti nell'ambito della cultura dei castiglieri. Nada Choc, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina degli spettacoli, Alessandro Benvenuti è il protagonista di Falstaff a Windsor, che debutta questa sera al Teatro Bobbio di Trieste per la stagione della Contrada. Sarà in scena fino a domenica. Personaggio shakespeariano tra i più noti e citati, Falstaff è tra i protagonisti dell'Enrico IV e delle Allegre Comari, mentre nell'Enrico V se ne annuncia la morte. Corpulento e insaziabile di cibo e di vita, è un personaggio comico con radici drammatiche, cavaliere decaduto che cerca continuamente riscatto e rispetto, e nel finale è beffato dal fedele servitore Semola. Un ruolo perfetto per la comicità originaria di Alessandro Benvenuti, che conferma in questo spettacolo la perfetta intesa con la compagnia dell'Arca Azzurra. La regia è di Ugo Chiti, che così parla di Falstaff al microfono di Alberto Severi della redazione di Firenze. Come regista e come autore, una mia fascinazione sulla figura di Falstaff. Dant'eroe, non né in patria, né Dio, né famiglia, quindi ha una libertà e va controcorrente. Sempre a Trieste, questa sera prima rappresentazione al Politeama Rossetti per L'avaro di Molière nella versione contemporanea di Luigi Saravo. Nei panni di Arpagone c'è Ugo Dighero, alle prese con le tentazioni della pubblicità martellante fra smartphone e spot pubblicitari. Sullo sfondo c'è il matrimonio dei figli, che L'avaro vorrebbe fosse di convenienza ma che alla fine sarà d'amore. Tuttavia, il nuovo contesto, quello della tirannia consumistica, ci fa rivalutare Arpagone, quasi rivoluzionario nel respingere lo sperpero. Repliche fino a domenica. E ancora a Trieste si apre la rassegna Tasselli di Memoria, che il Teatro Miele ha programmato in vista della giornata per le vittime dell'Olocausto. Questa sera e domani va in scena La banalità del male di e con Paola Bigatto. Lo spettacolo si ispira al celebre libro di Hannah Arendt. Lo sport, ciclismo su pista, gli europei di Apeldoorn in Olanda, al quartetto azzurro dell'inseguimento, guidato dal buiese Jonathan Milan, contenderà oggi il bronzo alla Germania. Ieri, dopo aver ottenuto il terzo tempo nelle qualificazioni, l'Italia è stata battuta dalla Gran Bretagna in semifinale. Gli inglesi gareggeranno per la medaglia d'oro contro la Danimarca, che ha ottenuto nettamente il miglior tempo. Nella formazione azzurra, il grande assente è Filippo Ganna, impegnato in Australia con il proprio club. Chiudiamo con il calcio. Sarà diretta dall'arbitro Pairetto di Nichelino la partita fra Fiorentina e Udinese nel prossimo turno del massimo campionato. Lo ricordiamo, si giocherà domenica alle 18. È tutto per questa edizione, che è stata realizzata da Daniele Lettige, Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Jacopo Brunisso e Mauro Ciccarelli. Sono le 12:53, prossima edizione alle 15. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.